Annasiat, le strappanti violente. Bismillahirrahmanirrahim. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. Wan-nazi'ati ghorqa. Per gli strappanti violenti. Wan-nashitati nashta. Per i correnti veloci. Was-sabihati sabha. Per i nuotanti leggeri. Fas-sabiqati sabqa. Per i sopravanzanti con foga. Fal-mudabbirati amra. Per sistemare ogni cosa. Yawma tarjufur rajifa. Il giorno in cui risuonerà il risonante. Tatba'uha radifa. Al quale seguirà il successivo. Qulubun yawma idhin wajifa. In quel giorno tremeranno i cuori. Absaruha khashia. E saranno abbassati gli sguardi. Yaquluna a inna lamarduduna fil hafira. Dicono, saremo ricondotti sulla terra. A idha kunna idhaman nakhira. Quando già saremo ossa marcite? Qalu tilka idhan karratun khasira. Dicono, sarebbe questo un disastroso ritorno. Fa innama hiya zajratun wahida. Ci sarà un solo grido. Fa idha hum bis-sahira. Ed eccoli risvegliati sulla superficie della terra. Hal ataka hadith Musa. Non ti giunse, o Muhammad, la storia di Mosè? Iz nadahu rabbuhu bil wadi al muqaddas tuwa. Quando lo chiamò il suo Signore nella valle santa di Tuwa. Idhhab ila fir'auna innahu tagha. Vada Faraone, in vero è divenuto un ribelle. Faqul hal laka ila an tazakka. E digli, sei disposto a purificarti? Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Sicché io ti guidi verso il tuo Signore e tu lo tema? Fa'arahu l'ayata l'kubra. Gli mostrò poi il segno più grande. Fakazzaba wa'asa. Ma quello tacciò di menzogna e disobbedì. Thumma adbara yas'a. Poi volse le spalle e si distolse. Fahashara fanada. Convocò i notabili e proclamò. Faqala ana rabbukumul a'la. Sono io il vostro Signore, l'Altissimo. Fa'akhadhahu Allahu nakala al-akhirati wal-ula. Lo colpì Allah con il castigo nell'altra vita e in questa. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. In ciò vi è motivo di riflessione per chi è timorato di Allah. A antum ashaddu khalqan am is-samaa banaha. Sareste voi più difficili da creare o il cielo che egli ha edificato? Rafa'a samkaha fasawwaha. Ne ha innalzato la volta e le ha dato perfetta armonia. Wa'atasha laylaha wa akhraja duhaha. Ha fatto oscura la sua notte e ha fatto brillare il chiarore del suo giorno. وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا. Dopo di ciò ha esteso la terra. أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا